In questi giorni, come in tutte le primavere preelettorali, i muri di Milano fioriscono di facce. E non solo i muri, qualsiasi superficie su cui sia umanamente possibile affiggere un pezzo di carta con sopra una fotografia, e tabelloni elettorali, tabelloni pubblicitari, contenitori per la carta e per il vetro da riciclare, cassonetti per l'immondizia, staccionate, recinzioni varie, edicole, chioschi, fontane, furgoni parcheggiati, barriere di qualsiasi tipo, e da quelle superfici sono lì che ti guardano tutti assieme. Vecchi riciclati che in meno di un lustro hanno fatto praticamente il giro degli schieramenti politici di due repubbliche senza nemmeno cambiare fotocolor, pubblici amministratori in carica residuale, signore con due cognomi come le professoresse di matematica che terrorizzavano la nostra adolescenza inquieta, indegni eredi di cognomi onorati, giovanotti di belle speranze e soprattutto sconosciuti. Sconosciuti destinati a restare irrimediabilmente tali. Perché non so se l'avete notato, ma il fenomeno della esposizione preelettorale delle proprie sembianze non riguarda, salvo rarissime eccezioni, né i leader più noti né i candidati importanti, il cui problema, fotograficamente parlando, è quello di confermare presso gli elettori un'immagine già acquisita per altre vie. E no, quasi tutti i concittadini speranzosi che si affacciano sorridendo dai muri in formato ritratto o a figura intera o in piano americano di fronte di profilo di tre quarti o come altrimenti ci si può mettere, non hanno altra immagine da accreditare che quella che esibiscono in fotografia dai loro manifesti. Altro messaggio all'elettorato non sembrano in grado di mandare, salvo certi banalissimi slogan che accompagnano un loro bel faccione, in cui manifestano tutti più o meno l'intenzione selette di lavorare come dannati per il benessere della città, e visto che si sono candidati sembrerebbe un impegno abbastanza ovvio, ci mancherebbe altro che dichiarassero a proposito di portire per 4 anni di fila di mangiare e bere alla facciata nostra. In compenso si sono infilati tutti in un vestito nuovo, con tanto di camicia e cravatta in tinta per i signori, allo scopo preciso di farsi fotografare e di poter quindi esibire, speriamo a proprie spese, il loro sembiante, nella convinzione, acquisita chissà come, che basti questo impudico far mostra di sé per spingerci tutti quanti a votare per loro. Ora non c'è niente di male, naturalmente, nel desiderio di farsi eleggere nel consiglio comunale della propria località di residenza. È un'ambizione che condividono persino un paio di nostri amici, quali che siano le probabilità che hanno di realizzarla. Ma ovvio che a tale scopo conviene esibire agli elettori se non un programma che a quello si sa pensano i partiti, poi oggi i programmi non interessano più a nessuno, basta vedere che fine hanno fatto quello dei sindaci uscenti, però almeno qualche ragionevole competenza, qualche sia pur minima capacità, non una faccia. Una faccia ce l'abbiamo tutti, magari bruttina, ma tanto la nostra cultura non considera più come ai tempi di Omero la bellezza tra le virtù socialmente rilevanti, no? Cosa che poi, detto inter nos, nel caso specifico conta fino a un certo punto, perché dal punto di vista estetico le facce in questione non sono proprio un granché, non susciterebbero certo l'emozione di un nostalgico della calocagazia, che non è niente di male, è solo la parola greca che indica la convinzione che basti essere belli per essere abilitati a governare gli altri. Alcune sono facce francamente inquietanti. Da augurarsi di non incontrare mai i loro portatori in un vicolo scuro dopo il tramonto. Ma per la maggior parte sono facce normali, senza segni distintivi in un senso o nell'altro. E anche i loro proprietari in un certo senso ne sembrano consapevoli, perché sono chiaramente in posa. Anzi, si sono fatti tutti più o meno truccare e qualcuno non ha resistito alla tentazione del ritocco sulla foto, con l'unico risultato di accentuare i particolari che desideravano mettere in ombra. Se osserviamo quelle fotografie con un po' d'attenzione, è abbastanza facile cogliere la divaricazione tra come normalmente appaiono i loro soggetti e come hanno pensato per l'occasione di dover apparire. E se è vero che una divaricazione di questo genere fa parte dell'esperienza di tutti noi, perché tutti cerchiamo, quando ce ne ricordiamo, di apparire in un certo modo, e in genere non ci riusciamo, come ci ricorda puntualmente lo shock che subiamo quando ci capita di trovarci di fronte all'improvviso davanti a uno specchio o un'altra superficie riflettente e ci chiediamo sgomenti, ma quello sono io, no? Ma è anche vero che degli aspiranti amministratori e governanti ci si potrebbe sentire in diritto di chiedere di mostrarsi superiori a queste debolezze, nelle quali invece gli sciagurati cadono tutti subito, con quello che nella maggior parte dei casi sarà il primo e ultimo atto della loro campagna elettorale. Perché? Perché può darsi che il messaggio rappresentato da quelle foto sui muri sia più complesso di quanto non appaia e sia rivolto a degli interlocutori alti di quelli espliciti, per esempio che sia un'esibizione di mezzi e di volontà rivolta soprattutto ai concorrenti schierati nella stessa lista, o ai dirigenti locali e nazionali del movimento d'appartenenza, tutta gente a cui bisogna far sapere d'esserci, perché in questo tipo di competizioni chi c'è chi non si fa vedere a torto, ma esistono ben altri mezzi per farsi notare. Io nonostante tutto ho il sospetto che quei poveracci ricorrono all'esibizione fotografica perché alla fin fine si piacciono. Credo sia stato Christopher Lasch a sostenere qualche anno fa che tra i tanti abitatori mitologici della psiche, qualsiasi cosa Freud abbia detto su Edipo, il più potente resta sempre Narciso. E in fondo questa capacità di vedersi più belli, migliori, in qualche modo di quel che si è, non è disprezzabile, non è una dote disprezzabile in un politico, in un aspirante tale. Certo, non è neanche un argomento in base ai quali dovremmo votarli, ma di argomenti per non votare nessuno dei candidati, ce ne sono tanti, ma tanti, che uno più o uno in meno non ha una particolare importanza.